liberar l'anima. Mi ascolti me, prigioniera di materia non mia, prigioniera di materia mia. Moria taccio, la disincanto, barre si schiudono, acqua di vita senza limite, libera scorre, splende in dono, su terre di morte, anime di vite, nostra anima, vento incanto, s'apre l'orizzonte fiero al guardo, intonando immenso lirico canto. Sopra materia io sorgerò vero, distorto lo sguardo l'inchiostro santo, in un verso nuovo per giardini di mago errerò. Libera anima, vivi ascolti il vento, prigioniera di materia non mia, muore tacci nel disincanto, sbarre si schiudono, acqua di vita senza limite, libera scorre splendendo su terra di morte, anime di vita, nostra anima, mente incanto, s'apre orizzonte fiero al guardo, intonando il mio solito canto, sopra materia io sorgerò, vero, di sotto lo sguardo di un posto santo, in un verso nuovo giardino di mago rivero. Libera anima, vivi ascolti il vento, prigioniera di materia non mia, muore tacci nel disincanto, sbarre si schiudono, acqua di vita senza limite, libera scorre, splende un dono, su terra di morte, s'anima di vita, nostra anima, vento incanto, sacro orizzonte fiero, e guardi intonando immenso lirico canto, sulla materia sorgerò, vero, di sotto lo sguardo non c'è spessante, non verso un nuovo per giardino di un mago, io errerò, libero di sbarre il nostro animo, sopra distorto l'universo d'inchiostro, dimostro lirico vostro, per sempre in orizzonti lontani, portati di rondine contro luce risplenderà. Libero di sbarre il nostro animo, sopra il distorto in un verso d'inchiostro, dimostro lirico vostro, per sempre un orizzonte lontano, portati di rondini contro luce, risplenderà. Libera anima, vive ascolti il vento, prigioniera di materia non mia, vuole tacere di disincanto, sguardi si schiudono, acqua di vita senza limite, libera scorre, splende in dono, su terra di morte, anime di vita, nostra anima, vento incanto, sacro orizzonte fiero, guarda intonando immenso nel tuo canto, sono materia, io sorgerò vero, distorto lo sguardo, non chiesto santo, in un verso nuovo per giardini di un mago errerò, libero da sbarre nostro. Libera l'anima, mi ascolti me, prigioniera di materia non mia, prigioniera di materia mia. Taccio, la disincanto, barre si schiudono, acqua di vita senza limite, libera scorre, splende in dono, su terre di morte, anime di vite, nostra anima, vento incanto, sacro orizzonte fiero, al guardo intonando immenso lirico canto. Sopra materia io sorgerò vero, distorto lo sguardo l'inchiostro santo, in un verso nuovo per giardini di mago, errerò. Libera anima, vivi ascolti il vento, prigioniera di materia non mia, amore tacine di disincanto. Sbarre si schiudono, acqua di vita senza limite, libre scorre spenendo su terra di morte saline di vita, nostra anima, mente incanto, sapra di gente fiero al guardo, intonando il messo lirico canto. Sovra materia io sorgerò, vero, di sotto lo sguardo del vostro santo, universo nuovo giardino di mago di verde. Libera anima, vivi, ascolti il vento, prigioniera di materia non mia, amore cascina disincanto, sbarre si schiudono acqua di vita senza limite, limite libera, libera scorre, splende in dono, su terra di morte, s'anima di vita, nostra anima vento incanto, sopra l'orizzonte fiero, la guardia intonando immenso lirico canto. Sulla materia sorgerà, ovvero di sotto lo sguardo di Cristo Santo, un verso nuovo per giardino di un mago, io errerò, errerò, errerò, libero da sbarre il nostro animo, sopra distorto in un verso d'inchiostro, dimostro lirico vostro, dimostro lirico vostro, dimostro lirico vostro, per sempre in orizzonti lontani, portati di rondine contro luce risplenderà. Libero da sbarre il nostro animo, sopra distorto in un verso d'inchiostro, di nostro lirico vostro, per sempre un orizzonte lontano, e ritratti di rondini contro luce, risplenderà, risplenderà, risplenderà. Libera anima, vivi, ascolti il vento, prigioniera di materia non mia, vuole tracciare di disincanto, sbarre si schiudono, acqua di vita senza limite, libera scuola spegne in dono, su terra di morte sanime di vita, nostra anima, metti in canto, sopra l'orizzonte fiero e guardo intonando immenso nel tuo canto, sopra materia, materia, io sorgerò vero, rispetto allo sguardo non ti atto santo, in un verso nuovo per giardini di un mago errerò, errerò, libero da sbarre il nostro... Libera l'anima, vivi, ascolti il vento, vivi, ascolti il vento, vivi, ascolti il vento, prigioniera di materia non mia, prigioniera di materia non mia. Taci, la disincanto, la disincanto, pare si schiudono, schiudono, acqua di vita senza limite, limite, limite, libera scorre, splende in dono, dono, dono, dono, su terre di morte, anime di vita, nostra anima, vento incanto, sapra l'orizzonte fiero, guardo intonando immenso lirico canto. Sopra materia io sorgerò vero, distorto lo sguardo all'inchiostro santo, in un verso nuovo per giardini di mago, errerò, errerò. Libera anima, vivi, ascolti il vento, prigioniera di materia non mia, muore tacine di disincanto, sbarre si schiudono, acqua di vita senza limite, libera scorre spegnendo su terra di morte salime di vita, nostra anima, mente incanto, sapra di gente fiero al guardo intonando il messo lirico canto, sopra materia io sorgerò, vero, di sotto lo sguardo del vostro santo, in un verso nuovo giardino di un mago di verde, libera anima, vivi, ascolti il vento, prigioniera di materia non mia, muore tacina disincanto, sbarre si schiudono, acqua di vita senza limite, limite, libera, libera, scorre, splende in dono, in dono, in dono, su terra di morte, s'anima di vita, nostra anima, vento incanto, sopra l'orizzonte fiero, la guardia intonando immenso lirico canto, sopra materia sorgerò, vero, distorto lo sguardo di Cristo Santo, in un verso nuovo per giardino di un mago, io errerò, errerò, errerò, libero da sbarre il nostro animo,

errerò, libero da sbarre nostro.